Rivestirsi di Cristo. Il modo migliore per aprirsi alla gioia dei tesori eucaristici consiste nell'impegnarsi intensamente nella partecipazione alle cerimonie, con vivo desiderio di coglierne a fondo il significato. Vivere la Santa Messa significa rimanere in preghiera continua, con la convinzione che per ciascuno di noi si tratta di un incontro personale con Dio. Lo adoriamo, lo lodiamo, gli chiediamo tante cose, lo ringraziamo, facciamo atti di riparazione per i nostri peccati, ci purifichiamo, ci sentiamo una cosa sola in Cristo con tutti i cristiani. Forse qualche volta ci siamo domandati come poter corrispondere a tanto amor di Dio, e forse vorremmo vedere esposto chiaramente un programma di vita cristiana. La soluzione è facile ed è alla portata di tutti i fedeli. Partecipare con amore alla Santa Messa, imparare nella Messa a mettersi in rapporto con Dio, perché in questo sacrificio è contenuto tutto ciò che il Signore vuole da noi. Per secoli e secoli, nel rivestire i paramenti liturgici, i sacerdoti hanno recitato alcune preghiere che la Chiesa non ha mai cessato di raccomandare anche in questi ultimi anni. Benedetto XVI le rammentava non molto tempo fa, spiegando il senso che esse racchiudono, e non soltanto per i sacerdoti, ma anche per i laici. Questi ultimi possono trarre grandi benefici anche dall'attenta considerazione del significato dei paramenti liturgici. Una buona preparazione culturale nei diversi ambiti del sapere non ci esime dall'interesse per approfondire, conoscere e assaporare tutto ciò che definisce, fin nei minimi dettagli, gli elementi integranti della nostra cultura. Ragion per cui, oltre a recitare personalmente queste orazioni, è opportuno che le facciamo conoscere agli altri. Potrebbero costituire la scintilla che risveglia o migliora la devozione per la Messa. L'indicazione di usare paramenti specifici per celebrare il Santo Sacrificio e per amministrare gli altri sacramenti ha una ragione ben precisa. Il Papa lo spiega nel seguente modo. Come nel battesimo viene donato uno scambio dei vestiti, uno scambio del destino, una nuova comunione esistenziale con Cristo, così anche nel sacerdozio si ha uno scambio. Nell'amministrazione dei sacramenti il sacerdote agisce e parla ora in persona Christi. Nei sacri misteri egli non rappresenta se stesso e non parla esprimendo se stesso, ma parla per l'altro, per Cristo. Così nei sacramenti si rende visibile in modo drammatico ciò che l'essere sacerdote significa in generale. Ciò che abbiamo espresso con il nostro ad summo, sono pronto, durante la consacrazione sacerdotale. Io sono qui perché tu possa disporre di me. Ci mettiamo a disposizione di colui che è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi. Seconda Corinzi 5,15. Metterci a disposizione di Cristo significa che ci lasciamo attirare dentro il suo per tutti. Essendo con Lui possiamo esserci davvero per tutti. Queste parole illustrano il significato dell'indossare le vesti sacre, quelle stesse che noi presbiteri contempliamo con i nostri occhi durante la cerimonia di ordinazione sacerdotale, dopo che il Vescovo ha imposto le mani sui candidati e recitato la preghiera consacratoria. La Chiesa, afferma il Papa, in questo gesto esterno vuole renderci evidente l'evento interiore e il compito che da esso ci viene. Rivestire Cristo, donarsi a Lui come Egli si è donato a noi. Questo evento, il rivestirsi di Cristo, viene rappresentato sempre di nuovo in ogni Santa Messa mediante il rivestirci dei paramenti liturgici. Indossarli deve essere per noi sacerdoti più di un fatto esterno, e l'entrare sempre di nuovo nel sì del nostro incarico, in quel non più io del battesimo che l'ordinazione sacerdotale ci dona in modo nuovo e al contempo ci chiede. Indossare i paramenti liturgici non è quindi un gesto inutile o un'azione banale, ma un segno che fa presente ai fedeli e allo stesso ministro sacro che il sacerdote celebra in quanto rappresentante di Cristo, come strumento intelligente e libero della sua azione redentrice. Quando arrivo all'altare, la prima cosa che mi viene in mente è: José María, tu non sei José María Escrivá de Balaguer, tu sei Cristo. Tutti noi sacerdoti siamo Cristo. Io presto al Signore la mia voce, le mie mani, il mio corpo, la mia anima, gli do tutto me stesso. È Lui che dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e non colui che consacra. Altrimenti quelle parole io non potrei dirle. Si rinnova lì in maniera incruenta il divino sacrificio del Calvario. Perciò io mi trovo sull'altare in persona Cristi, faccio le veci di Cristo. In quel momento io, sacerdote, come persona con nome e cognome, non ci sono più. A tutti, non solo ai presbiteri, conviene approfondire ogni giorno di più il rigore nella liturgia. È commovente considerare che nell'Antico Testamento il Signore indica a Mosè come debbano essere gli oggetti e le vesti per il culto divino, che allora era soltanto un segno del sacrificio del Calvario. Il Signore specifica molte prescrizioni rituali che sottolineavano il massimo splendore del culto richiesto al popolo eletto. Se all'epoca c'era solamente la figura delle cose divine, Ebrei 9:9, 1 Corinzi 10:11, e non la vera realtà, come non attribuire ora grande importanza a tutto ciò che la liturgia prescrive o suggerisce? Le orazioni raccomandate al sacerdote mentre indossa i paramenti spiegano in dettaglio come deve mettere tutto se stesso al servizio del ministero che Cristo gli ha affidato. È fuor di dubbio che il meditarle di quando in quando può servire alla vita spirituale dei sacerdoti e anche a quella dei fedeli laici. Anch'essi infatti hanno un'anima sacerdotale ricevuta nel battesimo. Devono perciò praticare le stesse virtù che esercitano i buoni sacerdoti. Se agisci, vivi e lavori al cospetto di Dio per ragioni d'amore e di servizio, con anima sacerdotale, anche se non sei sacerdote, tutto il tuo agire acquista un genuino senso soprannaturale che mantiene tutta la tua vita unita alla fonte di tutte le grazie. I paramenti sacerdotali. Ci sbaglieremmo davvero se non amassimo lo splendore della liturgia. È sempre attuale quell'elogio di un buon sacerdote tessuto da San Girolamo. Si preoccupava se l'altare era ben pulito, se le pareti non erano incrostate di fuliggine, se i pavimenti erano lucidi, se l'ostiario era assiduo al portone, se c'era sempre la tenda davanti alle porte, se la sacrestia era ben tenuta e i vasi sacri ben lustri. Con religiosa cura disponeva tutto per le cerimonie, senza trascurare nessun ufficio, piccolo o grande che fosse. La chiesa e la sua pulizia, la bellezza dell'altare, l'armonia del crocifisso e dei candelieri, l'accurata disposizione delle tovaglie che ricoprono l'altare, il materiale prezioso utilizzato nella fabbricazione dei vasi sacri, l'eleganza dei libri, messale e lezionario, i paramenti sacerdotali decorosi e ben tenuti, e così via. Tutto ciò ci parla del dialogo rispettoso e pieno di fede, mediante il quale il popolo di Dio, cioè tutti noi insieme a ciascuno di noi individualmente, deve rivolgersi alla Santissima Trinità nel culto di sincera e totale adorazione di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, presenti nel sacrificio dell'altare. Il primo indumento liturgico rivestito dal sacerdote è l'amitto, un panno di lino bianco con il quale anticamente si copriva il capo. Mentre lo indossa, dopo aver baciato la croce di solito ricamata nella parte centrale, il presbitero prega: Impone, Domine, capiti meo, galeam salutis, ad espugnandos diabolicos incursus. Imponi, o Signore, sulla mia testa l'elmo della salvezza per combattere contro le insidie del demonio. In questo modo viene indicato che il raccoglimento dei sensi e della mente è necessario per celebrare degnamente la messa. I fedeli, quando si accingono a partecipare al santo sacrificio, devono impegnarsi con lo stesso sforzo, la stessa attenzione, identica concentrazione dei sensi e del pensiero. Benedetto XVI commenta l'azione di indossare l'amitto con considerazioni utili per tutti. I pensieri non devono vagare qua e là dietro le preoccupazioni e le attese del mio quotidiano. I sensi non devono essere attirati da ciò che lì all'interno della chiesa casualmente vorrebbe sequestrare gli occhi e gli orecchi. Il mio cuore deve docilmente aprirsi alla parola di Dio ed essere raccolto nella preghiera della chiesa, affinché il mio pensiero riceva il suo orientamento dalle parole dell'annuncio e della preghiera. E lo sguardo del mio cuore deve essere rivolto verso il Signore che è in mezzo a noi. Se io sono con il Signore, allora con il mio ascoltare, parlare e agire, attiro anche la gente dentro la comunione con Lui. Nel vestire il camice, il sacerdote chiede a Dio di purificare il suo cuore con il preziosissimo sangue dell'agnello che è Cristo, per poter godere di Lui eternamente in cielo. Nel mettersi la stola, il presbitero implora che gli sia resa la condizione immortale, quella che tutti abbiamo perso con il peccato dei nostri progenitori. Tali orazioni evocano il vestito festivo che il padre donò al figlio prodigo tornato a casa cencioso e sporco. Quando ci accostiamo alla liturgia per agire nella persona di Cristo, ci accorgiamo tutti quanto siamo lontani da Lui, quanta sporcizia esiste nella nostra vita. Egli solo può donarci il vestito festivo. È importante, lo è sempre stato, indossare correttamente il camice utilizzando una taglia giusta e adeguata al fisico del sacerdote. Un modo sciatto di portarlo, perché magari è eccessivamente lungo o troppo corto, o perché è tutto spiegazzato, quasi che si volesse in questo modo da parte del celebrante rifiutare il rigore severo e accurato nel rivestire i paramenti, non è un fatto di scarsa rilevanza. Denota anzi, sia nel sacerdote, sia in chi serve la messa, sia in coloro che vi assistono, una mancanza di rispetto al cospetto del Signore dei Signori. Apocalisse 19:16. Il cingolo facilita il corretto posizionamento del camice e ricorda inoltre la necessaria purezza di anima e di corpo richiesta per accostarsi ai sacri misteri. Tale concetto viene espresso dall'orazione che la Chiesa raccomanda di recitare al sacerdote quando si cinge di questo cordone. Precinge me, Domine, cingulo puritatis, ed estingue in me humorem libidinis, ut maniat in me virtus continentia et castitatis. Cingi, mio Signore, con il cingolo della purezza, e spegni nelle mie membra la tentazione della sensualità, perché dimorino in me le virtù di continenza e castità. Queste non sono raccomandazioni pignole né manifestazioni di eccessivo attaccamento alle cose del passato per amore dell'antico. Sono invece consigli consolidati dalla secolare esperienza della Chiesa. Non corre molta differenza tra la mancanza di delicatezza nell'uso dei paramenti liturgici e la rozzezza che mina alla base l'ordinato svolgersi delle attività civili e della vita sociale, a causa della trasandatezza nel modo di vestire che purtroppo riguarda oggi tanti uomini e donne. La mancanza di cura e la sciatteria nel presentarsi al cospetto di Dio da parte del sacerdote contribuiscono alla diseducazione dei fedeli laici. Il paramento liturgico che caratterizza propriamente i sacerdoti, presbiteri o vescovi, e la casula. Nell'indossarla il celebrante recita: Domine, quid ixisti, jugum meum suave est et tonus meum leve, fac ut istud portare sic valeam quod consequar tuam gratiam. O Signore, che hai detto: il mio giogo è dolce e il mio peso leggero, fa che io porti questo paramento in modo tale che mi renda degno di ottenere la tua grazia. Portare il giogo del Signore significa innanzitutto imparare da Lui, essere sempre disposti ad andare a scuola da Lui. Da Lui dobbiamo imparare la mitezza e l'umiltà, l'umiltà di Dio che si mostra nel suo essere uomo. Tale insegnamento, che tutti possiamo assimilare e applicare, ricorda che Cristo si lasciò docilmente condurre verso la passione e ci aiuta a sopportare con gioia e pace le contrarietà della giornata. Certamente, a volte vorremmo dire a Gesù: Signore, il tuo giogo non è per niente leggero, è anzi tremendamente pesante in questo mondo. Ma guardando poi a Lui che ha portato tutto, che su di sé ha provato l'obbedienza, la debolezza, il dolore, tutto il buio, allora questi nostri lamenti si spengono. Il suo giogo è quello di amare con lui. E più amiamo lui e con lui diventiamo persone che amano, più leggero diventa per noi il suo giogo, apparentemente pesante. Non va considerato superfluo l'uso di tessuti di qualità e di decorazioni raffinate nella confezione delle casule. È indimenticabile l'immagine di buon pastore, di degno successore di Pietro, che il servo di Dio Giovanni Paolo II offriva quando andava incontro al popolo di Dio, rivestito dei paramenti pontifici dopo le cerimonie solenni. Per lui era anche quello un modo, persino nei momenti in cui il peso della malattia lo spossava, di manifestare il suo forte e tenero amore alla Santa Messa e la sua donazione alle anime. Suscitiamo ogni giorno nel nostro cuore atti di riparazione e di umiltà, prima di celebrare o di partecipare alla Santa Messa. Se meditassimo assiduamente sul Mysterium Fidei, sul mistero di fede e di amore al quale prendiamo parte, sorgerebbe spontanea nel nostro cuore e sulle nostre labbra la necessità di chiedere perdono, di purificarci il meglio che possiamo, evitando inquietudini e scrupoli che il Signore non vuole, consapevoli del fatto che non saremo mai davvero preparati come sarebbe opportuno esserlo. Una preghiera attribuita a San Tommaso d'Aquino, proposta dalla Chiesa tra le preghiere preparatorie alla Santa Messa, manifesta proprio questi stessi sentimenti. Dio onnipotente ed eterno, ecco che mi accosto al sacramento dell'unigenito Figlio tuo, Signor nostro Gesù Cristo. Mi accosto come l'infermo al medico che gli ridona la vita, come l'immondo alla fonte della misericordia, come il cieco alla luce dello splendore eterno, come il povero e il bisognoso al Signore del cielo e della terra. Al Signore bastano la nostra buona volontà, i nostri desideri, concretati in opere, di rimanere molto vicini a Lui. Non per nulla ha detto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Matteo 9, 12, 13. Facendo eco a queste parole, San José María dava il seguente consiglio: comunicati, non è mancanza di rispetto. Comunicati proprio oggi, appena uscito da quel laccio. Dimentichi che Gesù ha detto: il medico non è necessario ai sani, ma ai malati. E aggiungeva: è rimasto per te. Se tu sei ben disposto, non è segno di riverenza omettere la comunione. Irriverenza è solo riceverlo indegnamente. Nella seguente preghiera alla Madonna, che è bene recitare prima dell'inizio del Santo Sacrificio, la Chiesa propone un altro buon compendio per la preparazione ravvicinata alla Messa. O Madre di pietà e di misericordia, Beatissima Vergine Maria, io, misero e indegno peccatore, mi rifugio in te con tutto il cuore e con tutto l'affetto, e invoco la tua bontà. Come rimanesti accanto al tuo figlio pendente dalla croce, così degnati di soffermarti clemente anche accanto a me, misero peccatore, e a tutti i sacerdoti che oggi qui e in tutta la Santa Chiesa offrono il sacrificio divino, affinché, sorretti dalla tua grazia, possiamo innalzare un sacrificio degno e gradito a Dio, uno e trino. Amen.